La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qui alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi, il nostro settimanale di cinema è pronto per tenervi compagnia nella prossima ora e raccontarvi quel che si può e fin dove si può dei film che escono nelle sale cinematografiche italiane questa settimana. A capitanarli idealmente c'è un nuovo film e già anticiperei un giudizio, chiamiamolo pure un nuovo capolavoro di Clint Eastwood che si intitola Changeling con una grandissima Angelina Jolie. Avremo modo di raccontarvelo, di farvi sentire le voci dei protagonisti nel corso della trasmissione, un film veramente molto commovente e molto toccante. Poi chiaramente per chi vuole divertirsi arriva in netto anticipo il Cinepanettone, ormai siamo vittime del demonio dell'anticipazione, è uscito il 14 novembre il film di Ari Coldoini con il cast Massimo Boldi e compagnia, per intenderci la fidanzata di papà. Avremo modo di parlare di altre tre pellicole, una piccola che si intitola Billo ed è una sorta di favola su un senegalese felice a Roma, una film che ci porta ai confini fra la vita e la morte come Awake, anestesia cosciente, e per restare in atmosfera thriller horror The Orphanage, un nuovo horror spagnolo di una scuola che sembra davvero inesauribile in questo genere per quanto riguarda almeno queste ultime due generazioni di registi. E allora andiamo ad assaporare i primi gusti, i primi profumi dei film della settimana nel nostro consueto audio sommario. La grande notizia che stai per diventare nonno. Me l'hai pollinata! Io li vedo sempre in televisione, sai, le trasmissioni sull'Africa. Deve essere bello lì. Ma non ti manca un po' la giungla, gli animali, eh? Mamma, Dakar è una metropoli di 5 milioni di abitanti, non è che vanno in giro con le liane. So che mio figlio è da qualche parte. Riesco ancora a sentirlo. Purtroppo suo figlio non è il primo. Ma se lei si impegna, potrebbe benissimo essere l'ultimo. Io sono cresciuta qui, era un orfanotrofio. Volevo tornarci e abbiamo pensato alla casa famiglia. Sarà bellissima. Quando vivevi qui da bambina, non avevi paura? Ti devo parlare. Sdraiati. Quando aprirò il torace e rimuoverò il tuo cuore, ci sarà una concreta possibilità che tu muoia subito sul tavolo operatorio. Ascolta tua madre. Non voglio che metti a rischio la tua vita con un chirurgo mediocre. È un mio amico. Io mi fido, mamma. Gli ultimi secondi del nostro audio sommario erano proprio dedicati, anzi tratti, dal film Awake, anestesia cosciente. Lo sapevate che ogni anno dicono i titoli di testa del film? Noi non ci siamo andati a documentare scientificamente, ma insomma abbiamo ragione di pensare che chi ha scritto queste cose lo abbia fatto. Ogni anno 30.000 persone nel mondo, tra quelle che vengono sottoposte a interventi chirurgici con anestesia totale, non entra completamente in stato di incoscienza. Insomma, sente, percepisce qualcosa del mondo esterno. Ecco, portate un po' al parossismo questo tipo di concetto, portatelo all'estremo e avrete l'ingrediente base di Awake, anestesia cosciente, ovvero un uomo giovane che viene operato per un trapianto di cuore e che vede, sente tutto quello che di buono e anche di meno buono succede durante l'intervento chirurgico. Chiaramente non potrà ribellarsi perché il suo corpo non risponde ad alcuna sollecitazione. Ci dice di più la nostra Barbara Righini. Una vita da sogno, quella di Clayton, interpretato da Hayden Christensen. È l'erede di un'importante azienda, molto ricco, con una madre che l'adora e una fidanzata che sembra perfetta, dolce, premurosa, bellissima. Ma Clayton soffre di cuore e non sa quanto tempo gli resta se non sarà sottoposto a trapianto. Senti, Clay, le cose stanno così. Il tempo stringe. Ebbene, le cose stanno così. Meglio sistemare le faccende terrene, perché un trapianto di cuore può anche andare male, quindi è meglio che Clayton metta le cose in chiaro con la madre, che non vede di buon occhio la giovane Sam. Clayton ama la sua ragazza e vuole sposarla, con o senza il consenso materno. Detto fatto, l'amore idilliaco fra i due è coronato nella notte fortunata in cui l'ospedale lo chiama per comunicare che un cuore è stato trovato. Clayton può contare sull'amico chirurgo Jack. Sa di essere in buone mani e invece... Aspettate. È tutto tuo. Non dovrei essere già addormentato. Ok, prepariamo il campo operatorio. È normale che vi senta ancora parlare? Anche se quest'anno mi ha fatto... Fermatevi! Vistami. Muoviti, fa qualcosa, Clay. Muovi un braccio, un dito, muoviti. No. Ecco fatto, il peggiore incubo si è avverato. L'anestesia non ha funzionato fino in fondo. Clayton sembra addormentato, è immobilizzato, ma può sentire tutto ciò che gli viene fatto. Quindi il taglio del bisturi e il cuore rimosso, ma può anche capire alcune trame alle sue spalle. Awake è un film dalle buone premesse, con un'idea forte di fondo, quella che farebbe rabbrividire chiunque. Cosa succederebbe se l'anestesia non funzionasse? Non molti lo sanno, ma può succedere ed è successo al regista Joby Harold. Lo spunto per Awake è arrivato proprio da un incubo personale. Eppure, dopo aver preparato un buon terreno, il film improvvisamente vira, i colpi di scena si susseguono in fretta e Awake non è più un thriller psicologico. Peccato, un'occasione sprecata. Awake, anestesia cosciente, è il primo dei film della settimana che vi abbiamo voluto presentare. Ora andiamo a dare un'occhiata a quello che è successo al botteghino 7 giorni fa. Qual è la classifica degli incassi dalla quale partiamo? C'era l'arrivo nelle nostre sale del nuovo capitolo della saga di 007, la Screen Parade da Daniela Faggion. 007 licenza di sbancare, il botteghino naturalmente in Italia come nel resto del mondo. Entra al quinto posto il film di Guillermo Arriaga, apprezzato anche a Venezia quest'anno, The Burning Plain, per le bellissime Charlize Theron e Kim Basinger, più di 530.000 euro. Hai sconfitto la morte, hai combattuto, hai vinto. La tua cicatrice è bellissima. 555.000 gli euro che il robottino Wall-E aggiunge alla sua collezione, con due posizioni in meno, è quarto, ma più di 7.800.000 complessivi. Stabile al terzo posto la commedia francese Jouer le Nord, che con altri 650.000 euro arriva a sfiorare i 2 milioni. Mi scusi, sono spasmi muscolari, scusi. Scende al secondo posto High School Musical 3, che aggiunge 2 milioni al suo saltellante bottino e arriva a 7 tondi, mentre in vetta debutta Drink e pistola alla mano 007 Quantum of Solace, 3 milioni e qualche spicciolo e un'imbronciatissima Bond Girl. Hai preso il colpevole? Ancora no. Dimmi quando ci riesci. Voglio sapere cosa si prova. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea. Siete pronti ad avere un po' di paura? È arrivato il momento, dopo il thriller psicologico Awake, di un vero e proprio horror. Anche se non siamo nell'ambito splatter con viscere e teste mozzate, ma siamo invece nell'ambito dell'horror più raffinato, quello psicologico. Una scuola, quella spagnola, che sta sfornando ormai da 10 anni talenti straordinari in questo genere e sta avendo una risposta notevole anche con il pubblico. Evidentemente quella scuola che l'Italia ha un po' forse abbandonato per strada, fermandosi, se vogliamo, ai tempi di Dario Argento, ovvero la scuola dell'horror italiano, che ancora oggi è riconosciuta a livello internazionale con un ruolo fondamentale nella storia di questo movimento. Pensate a personaggi come appunto Dario Argento, ma anche come Lamberto Bava, Lucio Fulci, potremmo andare avanti ancora. Ebbene, questa eredità sembra essere stata ormai stabilmente presa dal cinema spagnolo, che ha sfornato negli ultimi anni registi di livello davvero internazionale, a partire da Alex de la Iglesia, poi passando per Alejandro Amenábar e ancora Jaume Balagueró, Paco Plaza, adesso questo Juan Antonio Bayona, che ha firmato questo The Orphanage, un film dove riecheggiano un pochino i climi sospesi e terrificanti del classico stilema horror della casa maledetta, questa volta un orfanotrofio. Un grande successo commerciale in Spagna, dicevamo, ha visto per noi il film Daniela Faggion. 1, 2, 3, tocca la parete. 1, 2, 3, tocca la parete. 1, 2, 3, tocca la parete. 1, 2, 3, tocca la parete. Laura e il marito Carlos vanno a vivere in una villa vicino al mare, una grande casa che un tempo era stata l'orfanotrofio Buon Pastore, da cui proprio Laura era partita per essere adottata, lasciando gli amici d'infanzia. La coppia a sua volta ha adottato un bambino, Simone, ignaro di non essere loro figlio naturale e di avere una grave malattia, e sta inoltre preparando la casa all'arrivo di altri piccoli con problemi per creare una casa famiglia. Ma Simone non sembra felice di questo. Lui ha già tanti amici immaginari con cui gioca e parla. C'era una volta un pirata cattivo, cattivo, cattivo, che nascondeva i suoi tesori in una caverna vicino a un faro. Che tesori erano? Ma per i tesori che rubava. Sì, ma per entrare nella caverna non credere che era facile. E per niente. Come si c'era un sistema speciale. E proprio in una caverna Simone incontra un altro amico invisibile, Tomas, che invita nella sua grande casa. Laura, già preoccupata per le strane fantasie del figlio, è ancor più inquietata dalla visita di Benigna, sedicente assistente sociale, che le consegna, non richiesta, la cartella con tutti i documenti di Simone. Durante la festa per accogliere i nuovi ospiti, poi Simone scompare. Inutili per mesi le ricerche, solo quando Laura accetta di credere per vedere, gli amici di Simone la rimetteranno in contatto con il suo bambino e con il suo passato. 1, 2, 3, tocca la parete. 1, 2, 3, tocca la parete. 1, 2, 3. Bambini, giocattoli, conchiglie, la fiaba di Peter Pan, maschere di cartapesta, disegni, filmini in Super 8, una medium con il volto di Geraldine Chaplin. La semplicità con cui Juan Antonio Bayona riesce a suscitare una profonda inquietudine è proporzionale al suo stile raffinato. Per questo film, che ha vinto 7 premi Goya, tra cui migliore esordiente, si scomodano volentieri paragoni con The Others di Alejandro Amenábar o in generale con alcune cifre di Alfred Hitchcock. L'inquietante Benigna sembra un omaggio a Norman Bates di Psycho. Quando vivevi qui da bambina, non avevi paura. Bayona mostra una profonda padronanza del linguaggio cinematografico, soprattutto di genere, tanto da aver convinto Guillermo del Toro a produrre la pellicola, che, vale la pena ricordarlo, è un'opera prima. Forse il cineasta catalano non ha il coraggio di essere, tra virgolette, cattivo fino in fondo, scegliendo un finale fin troppo pacificante per tutta l'inquietudine che ha sollevato sin dal primo fotogramma. Tra i tanti pregi, invece, vanno sottolineate la coerenza con cui tutti i dettagli disseminati si incastrano e la bravura di Belen Rueda, protagonista caparbia, che trascina in maniera convincente lo spettatore nel gioco cui è chiamata a partecipare. Era The Orphanage, l'horror spagnolo, fra le proposte di questo fine settimana. Noi cominciamo adesso a giocare con un DVD game abbastanza particolare rispetto al solito. Chi ci segue sa che abitualmente noi lavoriamo su un film, uno stesso titolo, di cui vi proponiamo 3 tracce durante la nostra trasmissione, 3 dialoghi che dovete utilizzare per scavare nella vostra memoria e provare a indovinare di che film si tratta, e in palio c'è proprio il DVD di quel film. Ebbene, questa volta le cose cambiano. Siccome la Warner Bros., come abbiamo sentito la settimana scorsa anche con l'intervista a Giovanni Cogliati, festeggia gli 85 anni di vita con l'uscita di 85 capolavori della sua storia, noi abbiamo selezionato alcuni di questi titoli davvero molto famosi, e quindi dovrebbe essere relativamente semplice capire lo spirito del film e individuarlo. Ebbene, vi proporremo 3 tracce di 3 film diversi, di 3 di questi 85 capolavori. Cominciamo con il primo, ascoltiamo insieme. Voglio sposare la tua Nettie. Ho bisogno di qualcuno, subito. Non ho nessuno per guardare i miei bambini. Litigano sempre, si feriscono e vomitano per terra qualche volta. E io ho una fattoria da mandare avanti. Vedrai. Vedrai come te la tratto, la tua Nettie. Non ti posso dare, Nettie. È troppo giovane. Ma sai che faccio? Ti do l'altra, Silly. Lei è la prima e deve sposarsi per prima. Però non è più intatta, e questo lo sai anche tu. È stata guastata 2 volte. Silly è brutta, ma è abituata a lavorare e impara alla svelta. Poi il Signore l'ha sistemata per sempre. Ci puoi fare quello che vuoi e non avrai altre bocche da sfamare. Ma Nettie no, non ci pensare neanche, non l'avrai né oggi né mai. Un padre che tratta sul matrimonio di una figlia anziché di quell'altra. Le 2 figlie sono dietro una finestra che ascoltano questo dialogo davvero terrificante. È un film straordinario che ha segnato un'epoca, quella degli anni 80, con un forte impegno, diciamo così, di denuncia civile, e che racconta una delle più grandi piaghe dell'umanità e della storia soprattutto degli Stati Uniti. Di più davvero non posso dirvi, ma se avete indovinato provate a dirci di quale film si tratta all'indirizzo larosapurpurea@radio24.it. Ed eccoci arrivati al cinepanettone. No, non avete sbagliato periodo e non avete sbagliato trasmissione. Questa non è una replica del Natale 2007 né un anticipo del Natale 2008. Il fatto è che il primo cinepanettone di quest'anno, esattamente come era successo 12 mesi fa, arriva con larghissimo anticipo. È già nelle nostre sale La fidanzata di papà, il film che vede protagonista uno dei componenti dell'ormai scoppiata coppia Boldi De Sica, ovvero Massimo Boldi, con tutto un rutilante sciame di star e presunte star televisive soprattutto e di comici habitué di questo tipo di film natalizi. La fidanzata di papà, raccontato alla Rosa Purpurea con le voci dei protagonisti da Micaela Bellisario. Eravamo rimasti al precedente film Matrimonio alle Bahamas. Ora la compagnia di Massimo Boldi si sposta compatta con la new entry Simona Ventura a Miami per una nuova avventura, la fidanzata di papà. Bentornati al tradizionale appuntamento con il primo dei consueti cinepanettoni. Stavolta due giovani, Davide Silvestri e Natalia Bush, aspettano un bambino. La cortina da un pezzo piomba il nonno Massimo Boldi, con famiglia a carico, compreso lo scapestrato e romanissimo fratello Enzo Salvi. Tutti ospiti della super manager Angela, alias Simona Ventura. Papà, vedrà che quando conoscerai la mamma di Barbara ti piacerà un sacco. Mi hanno detto che è molto simpatica. Soprattutto è molto bella. Ah, è molto bella, meno male, meno male. Ma è la mamma? Sì. Sì. Gianna, al mercatone. Barbara, ma cosa ci fa quel bifolca a casa mia? Mamma, Massimo è il papà di Matteo. Lui! Ma non è possibile. Ma che è successo? Un casino in aeroporto con la mamma? Epa, ma la conoscevi già? No, mai vista, perché? La sceneggiatura si basa ovviamente sui canoni classici di gaffe, intrecci imbarazzanti e conseguenti equivoci tra gag, dialettismi, battute, giochi di parole che tanto piacciono a chi va al cinema sotto le feste. L'unica novità è una singolare coincidenza diventata già un vero caso. Il bambino che nasce è infatti di colore. Sorpresa, già, perché con l'aria nuova venuta dall'elezione americana di Barack Obama non può che essere una felice intuizione, come racconta Massimo Boldi. Allora, abbiamo fatto un film per divertire il pubblico e adesso è diventato e sta diventando un caso particolare. La battuta che io dico quando vedo il bambino appena nato e dico: ma gli avete fatto la lampada? Me la sono inventata io al momento. Adesso voi la potete vedere al film, ma però quella cosa che ha detto il Presidente del Consiglio l'aveva detto in un altro contesto, in un'altra cosa, però casualmente è simile, è esattamente la stessa cosa. Seconda prova di attrice per Simona Ventura, che ha lasciato gli studi televisivi per diventare la suocera di Boldi. Ho un ruolo completamente diverso da quello dalla Simona Ventura che vedete in TV, per esempio, L'Isola o quelli che è il calcio, per cui sono stata contentissima di essere stata chiamata da Massimo Boldi e di essere stata guidata dal grande regista che è Enrico Oldoini, insomma. La scena che ho ripetuto di più l'ho ripetuta 3 volte, quindi mi sembra molto buono. Peraltro con Massimo abbiamo cambiato molte battute in corso, ci sono alcune battute che sono proprio state fatte lì, cotte e mangiate quasi televisivamente, e per cui sono stata contenta di questo, però è stata quasi una vacanza, devo dire, quella di Miami rispetto al ritmo che tengo nel lavoro televisivo. E se Biagio Izzo interpreta Maria, la segretaria di Simona Ventura, in una versione de Noartri, ripresa da Tuzzi, così ha detto Massimo Boldi, per Elisabetta Canalis un ruolo da cattiva. Ma perché andare a vedere la fidanzata di papà? Ce lo racconta proprio la ex velina. Bisogna andare a vedere questo film perché è molto carino, c'è un cast nuovo, c'è Simona che secondo me è un grosso personaggio televisivo che si è calato nei panni di attrice benissimo. Poi perché vi arriva subito, insomma, esce adesso questa settimana, quindi se proprio dovete andare a vedere un film di Natale andate a vedere questo, La fidanzata di papà. La rosa purpurea. Mi chiamo Christine Collins. Il 10 marzo mio figlio Walter Collins di 9 anni è scomparso. Dopo 5 mesi di indagini mi è stato portato un bambino da DeKalb, in Illinois. La polizia di Los Angeles ha detto a me e a voi che quel bambino era mio figlio. Non era mio figlio. Le parole di Christine Collins, una madre alla ricerca del suo bambino, il personaggio protagonista di Changeling di Clint Eastwood, aprono la terza parte della Rosa Purpurea. Un bambino scomparso nel nulla, un pomeriggio, le ore che diventano giorni e poi settimane, l'attesa che diventa speranza e poi delusione. Il bambino che la polizia le ha riportato indietro non è suo figlio. Forse l'inferno di Christine, una grande Angelina Jolie, comincia lì, di fronte a una polizia incapace e proterva, bisognosa di dimostrare dimostrare che quello è il bambino giusto per salvare la faccia dopo una lunga serie di insuccessi. Ma le pene di Christine fanno breccia nel cuore apparentemente burbero di un pastore protestante, il reverendo Gustav Brigleb, John Malkovich, al solito magnifico, che dalle stazioni radio, come dal pulpito della sua chiesa, appoggia la causa della madre che rivuole il suo bambino. È lei la signora Christine Collins? Sì. Sono il pastore della chiesa presbiteriana di St. Paul. La mia missione nella vita è portare alla luce tutte quelle questioni che la polizia di Los Angeles vorrebbe tenere nascoste. Questo dipartimento di polizia non tollera le critiche e lei è in condizione di metterli in imbarazzo, e allora non piace. Io rivoglio solo mio figlio. La lotta è dura. Christine Collins viene persuasa in tutti i modi ad accettare la versione ufficiale della polizia. Dapprima persuasa, poi costretta attraverso l'internamento nel manicomio criminale. Del resto, una donna che non riconosce il bambino che la chiama mamma e mette in dubbio l'operato della polizia non può che essere matta. Perché fa questo, signora Collins? Avete smesso di cercare mio figlio! Perché dovremmo cercare qualcuno che abbiamo già trovato? Non potete farlo! Consegnate la signora al reparto psichiatrico del Los Angeles County Hospital. Ambientato nella Los Angeles del 1928, affacciata al baratro della Grande Depressione, straordinariamente ricostruita dagli scenografi e ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto, Changeling è il film con cui Clint Eastwood prosegue la sua galleria di grandi figure femminili, iniziata con la Meryl Streep dei Ponti di Madison County, proseguita con la Hilary Swank di Million Dollar Baby. Quello di Christine Collins fu un caso che sconvolse l'America e che servì alla crescita democratica di una città come Los Angeles, al tempo in mano una polizia inetta e corrotta. Sentiamo Clint Eastwood. It seemed like every two or three decades in pare proprio che ogni due o tre decadi il Dipartimento di Polizia di Los Angeles finisca sotto inchiesta perché la corruzione lo permea fino al midollo. Ecco, il 1928 è stato uno di quei periodi. Angelina si scontra proprio con questo. Invece di investigare perdono tempo, non viene creduta anche perché una madre single in quel periodo non era cosa ben vista. Ma poi con l'aiuto del personaggio impersonato da Malkovich, il reverendo, e non arrendendosi, trova le sue risposte. And they just followed through until she got some answers. Il film però parla anche dell'oggi, dimostrando dove può spingersi l'abnegazione di una donna comune, persino timida nei modi, ma pronta a fare appello alle sue forze più nascoste per salvare il suo bene più prezioso. Essere mamma, rivela Angelina Jolie, è servito molto, ma non è bastato. Certamente mi ha aiutato a essere una madre e immaginare il dolore e la frustrazione che potrei avere io se dovesse succedermi, ma ho dovuto cercare qualcos'altro perché non potevo rispondere solo nel mio modo. Per fare Christine Collins mi sono ispirata a mia madre, che ho perso poco prima di girare il film, e la protagonista è molto simile a mia madre. Lei era una donna passiva in molte cose e molto, molto dolce, ma quando toccavano i suoi figli diventava un leone, ma come donna era molto timida. La regia di Eastwood è asciutta, essenziale, un esempio da manuale di cosa al cinema deve essere detto e taciuto. Il montaggio magistrale tiene lo spettatore incollato allo schermo. È grande cinema, spettacolare nel racconto di un'epoca. Le signorine sui pattini nei centralini telefonici, per esempio. Arguto nelle citazioni cinematografiche. Christine che tifa per Accadde una notte nella corsa all'Oscar contro Cleopatra. A Clint non si può chiedere di più. Ancora una volta, grazie, Dirty Harry. Ed eccoci al secondo film misterioso di questa settimana. Come abbiamo detto, non tracce di uno stesso film, ma tre film differenti per festeggiare gli 85 anni della Warner Bros. Ascoltiamo. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui di nuovo. Lo interpreto come un complimento a Sam. Suppongo che egli vi rievochi la Parigi dei bei giorni. È vero. Vorremmo un tavolo vicino a lui. E lontano dal maggiore Strasser il più possibile. Se lo sapesse che preferite un negro a un ariano. Farò suonare mentre il tempo passa, mi pare che sia la vostra canzone preferita. Grazie. Due cognac, prego. Cognac. Lo avete riconosciuto? La rosa purpurea, @radio24.it per vincere il DVD di questo film. Più tardi giocheremo con un'altra traccia e con un altro film. E ora andiamo a Roma con la prossima proposta cinematografica. È un piccolo film che arriva nei nostri cinema, si intitola Billo e racconta la storia di un sarto senegalese che arriva nel nostro paese pieno di speranze, ma si troverà presto di fronte una dura realtà. Ce lo racconta Annalisa Misceo. In Italia non c'è una Ellis Island, ma chi arriva nel nostro paese oggi ha gli stessi sogni e le stesse speranze di chi una volta partiva dalla nostra terra e arrivava su quell'isola alle porte di New York. Quando Tierno lascia il Senegal ha un sogno: lavorare nel mondo della moda. Nel suo paese è sarto diplomato e pensa che nella patria del Made in Italy potrà realizzarlo. Ma come insegnano le favole, prima che i sogni si avverino bisogna passare attraverso un po' di incubi. Ed è così anche per Tierno. Venderà CD pirata per strada, perderà il lavoro che lo ha messo in regola per presunte molestie e finirà in carcere con l'accusa di terrorismo. Cioè, io non ho fatto niente. Io non ho mai stato qui. Sono venuto solo per lavorare. Ascoltami bene. Denzel Washington. Lo sai da dove vengo io, eh? Da Como. E anch'io. Sono qui per lavorare. E sapessi quanto mi girano i coglioni a dover stare tutto il giorno in mezzo a questi romani. Ma Tierno in Italia troverà anche tanti amici e l'amore. La sorella di uno dei suoi coinquilini italiani, una coppia gay dalla quale avrà un figlio, pur avendo una promessa sposa in Senegal. Senti, dimmi Tierno, ma i tuoi stanno ancora giù? Ti manca la tua famiglia? Sì, mi manca tanto. Vogliamo metterci a piangere tutti insieme ora? Girato con pochi mezzi tra Italia e Senegal, Billo, il Grand Dakar, secondo lungometraggio della regista Laura Muscardin, affronta il tema dell'immigrazione in chiave di commedia con molto equilibrio. Si ride spesso, anche in situazioni non proprio felici come il carcere. Il compagno di cella appassionato di Mattia Bazar è impareggiabile e non si vede il mondo diviso in buoni e cattivi. Lo stesso protagonista, l'attore non professionista Tierno Thiam, è raccontato con i suoi difetti e le sue contraddizioni, come qualsiasi essere umano. Inutilmente eccessivi personaggi macchietta, come l'avvocato, il poliziotto e lo stesso PM, cameo di Lella Costa. Ed eccoci al nostro appuntamento settimanale con Trailer USA, le anticipazioni del nuovo cinema americano dai trailer dei film ancora in lingua originale, visti per voi in anteprima dalla nostra Micaela Bellisario, che è qui con noi. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora, questa settimana, Micaela, possiamo presentare il trailer di un film di cui possiamo orgogliosamente dire per una volta noi c'eravamo. Anzi, io c'ero proprio quel giorno, quella mattina, in Stazione Centrale a Milano, quando non si poteva passare, non si poteva entrare, perché stavano girando un film. E che cos'era questo film? Si intitola The International, un film con Clive Owen e Naomi Watts, che si snoda in mezzo mondo, Berlino, Istanbul, New York, ma anche con molte scene girate a Milano, Pirellone, Stazione Centrale, ma anche altre zone della città. C'è anche un attore italiano, Luca Barbareschi, nelle vesti di un politico nostrano. La trama potremmo definirla praticamente attuale, perché è la storia di un intrigo finanziario che rimanda in un certo senso al crollo delle borse, alla Lehman Brothers, a questi grandi colossi che maneggiano soldi altrui e che di colpo si sono ritrovati senza liquidità. Sì, esattamente Franco, diciamo subito intanto per gli ascoltatori che il film lo vedremo a marzo. E sì, la pellicola è incentrata sulle indagini di un agente dell'Interpol interpretato da Clive Owen su una potentissima banca che si scoprirà avere traffici molto loschi. Owen lavora spalleggiato da un procuratore distrettuale interpretato da Naomi Watts e scopre che dietro a questo grande istituto di credito si cela una vendita illegale di armi gestita da una delle più grandi organizzazioni criminali del mondo. E ora vi facciamo ascoltare proprio un pezzo del trailer in cui Owen, che si chiama Louis Salinger nel film, rivela ai suoi capi tutto quello che ha scoperto. Two years ago we began receiving intelligence regarding the International Bank of Business and Credit. Anyone that's ever been in a position to move against this bank has either ended up dead or disappeared. You are accusing the world's largest bank of conspiracy and murder. There is no evidence. Ricordiamo anche la presenza di Armin Müllerschall, un altro grandissimo attore nel cast. Le riprese, Micaela, dicevamo, sono avvenute anche in Italia alla fine del 2007. Location, appunto, il grattacielo Pirelli, la parte più alta ricostruita dopo l'incidente aereo del 2003. E poi ancora Corso Italia, la Stazione Centrale, peraltro oggetto di una ripresa fatta dall'alto. Penso che neanche i milanesi abbiano mai visto Piazza Duca d'Aosta in quel modo, con quella inquadratura. Sì, è vero, infatti parli di una scena drammatica, nella scena in cui viene fatto saltare in aria il podio, in cui sta parlando Luca Barbareschi, che come detto prima interpreta un politico italiano. Tutti ci siamo domandati chi potrebbe essere, forse Berlusconi, non si sa, durante la conferenza stampa non ce l'hanno detto. Adesso vi facciamo ascoltare un dialogo tra Clive Owen e Luca Barbareschi, che confida al nostro agente FBI tutto il business che si cela dietro l'enorme traffico di armi legali appena scoperto appunto da Owen. The IBBC has purchased billions of dollars worth of Silpur missiles from the People's Republic of China. can't allow anyone to put our agenda at risk. They control everything. The International, quindi, nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo mese di marzo. Ciao Micaela, appuntamento la prossima settimana con Trailer USA. Ciao Franco, ciao a tutti. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, nella zona dedicata ai DVD, come ogni settimana, per raccontarvi le ultime novità in campo di DVD e Blu-ray, ma anche per sentire come sono andate le cose la settimana scorsa, capire quali sono i vincitori del film che vi avevamo proposto a tracce, a pezzi, come tutte le settimane nel nostro DVD Game. Allora andiamo ad ascoltare una traccia, diciamo così, riepilogativa e esemplificativa del gioco della scorsa settimana. Ha una bella faccia tosta. Spiacente. La prossima volta spero prima alla telecamera. O a se stesso. Lei è piombato in un'ambasciata, violando l'unica regola assolutamente inviolabile delle relazioni internazionali. E per cosa? Per uccidere un signor nessuno? Dovrebbe mostrare un minimo di giudizio. Infatti, ho pensato che un costruttore di bombe in meno al mondo fosse un bene. Si trattava di Casino Royale, avevamo voluto restare in ambito 007, visto che era la settimana di partenza nelle sale del nuovo film dell'agente segreto James Bond. Hanno indovinato e hanno vinto Claudio Piero Pan di Vicenza e Giuseppe Manzo di Firenze. A loro arriverà questa splendida edizione in DVD triplice della Sony Home Entertainment di Casino Royale, della quale ci parla, come sempre, il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Beh, cosa dire, questa è un'edizione assolutamente strepitosa, il terzo disco che va ad aggiungersi ai due della prima uscita di Casino Royale in home video, aggiunge ulteriormente approfondimenti all'interno di quella che è stata la complessa elaborazione di questo film. Ci sono svariati nuovi documentari sugli effetti speciali, sulle grandissime difficoltà che ci sono state, ma tranquillamente superate dalla produzione nella fase proprio di realizzazione vera e propria. Dei momenti più arditi di stunt all'interno del film sono veramente tantissimi. All'interno di questo cofanetto si trova, come sempre, la versione solita cinematografica del film. Tra l'altro è stata occasione per Sony Pictures Home Entertainment di distribuire un'edizione speculare a due dischi Blu-ray in alta definizione. E quindi davvero un ottimo prodotto questo Casino Royale, che ci aiuta a entrare un po' nel vivo delle origini della saga di James Bond. Noi però abbiamo anche un ospite, non tanto per parlare solo di Casino Royale, ma per parlarci di alcune novità che insieme a Casino Royale stanno uscendo per casa Sony Home Entertainment, con Fabrizio Ferrucci, il patron della divisione italiana di questa compagnia. Due novità tecnologiche che ci aprono un po' anche l'orizzonte a quello che può diventare il DVD e soprattutto il Blu-ray. Si tratta del BD Live e della copia digitale. Ci spiega cosa sono queste due novità Fabrizio Ferrucci. BD Live è un applicativo molto importante perché permette l'interazione totale del Blu-ray acquistato con il mondo internet in tutti i sensi, quindi possibilità di scaricare contenuti speciali aggiuntivi a quelli già presenti sul disco, che possono essere salvati sull'hard disk del lettore, vedere dei pezzi di filmati in anteprima di film nuovi che usciranno, ma soprattutto la possibilità di interagire con altri utilizzatori di dischi Blu-ray e scambiarsi delle informazioni, delle opinioni, giocare. Il mercato le sembra già maturo per una nuova svolta di questo tipo? Da un lato sì, da un lato no. Da un lato sì, perché la stragrande maggioranza di utilizzatori di Blu-ray in questa fase è un pubblico abbastanza giovane, quindi già molto attento alla realtà del mondo virtuale. Dall'altra parte c'è l'aspetto che ancora il Blu-ray non è così diffuso ancora sul territorio, per cui ci aspettiamo degli ulteriori sviluppi. C'era la copia digitale anche. Ci può raccontare un po' di che cosa si tratta? In buona sostanza, che cos'è la copia digitale? La possibilità di avere già formattato per l'uso computer o supporti portatili tipo PlayStation portatile o in futuro anche l'iPod, di avere già il file sul disco che può essere installato o sull'hard disk stesso o trasferito appunto su questi apparecchi portatili, però con la qualità eccellente di un file già formattato all'origine. Era Fabrizio Ferrucci di Sony Home Entertainment. Noi a questo punto concentriamoci invece sull'ultimo passaggio del DVD Game di questa settimana. Andiamo ad ascoltare la traccia misteriosa. Ah, deve vedere il giardino prima di andarsene. Deve proprio. I miei fiori vincono sempre dei premi. Tutti ne parlano in giro. Voilà. Le mie rose gialle. Il mio giardino. Mia figlia. Cara, abbassa per favore. Posso offrire una casa comoda, un giardino assolato, un'atmosfera tranquilla, le mie torte di ciliegie. Bene, ma non abbiamo parlato di quanto. Oh, beh, una cosa simbolica, diciamo, 200 al mese? La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di quale altro grande classico si tratta. Stiamo giocando, come dall'inizio di questa puntata, con i grandi classici della Warner per gli 85 anni della casa di produzione e distribuzione americana, per vincere appunto DVD che questa volta non sono lo stesso, ma sono tre DVD diversi. E allora noi torniamo alle recensioni, torniamo a Claudio Pofi, perché dopo Casino Royale dobbiamo parlare di un paio di classici davvero importanti, e cominciamo con Nick Manofred. Ascoltiamo la clip. Chiunque non riporti indietro le bottiglie delle bibite passa una notte in cella. Chi parla ad alta voce passa una notte in cella. Se avete qualche dubbio, venite da me. Io sono Car, capo camerata, e sono responsabile dell'ordine qui dentro. Chi non tiene la roba in ordine passa una notte al bar. Sta buono e non fare il testone, sai. Distribuisce Warner questo gioiello di Stuart Rosenberg del 1967, che vede coinvolto in prima persona il grandissimo e indimenticato Paul Newman, tra l'altro in uno dei ruoli più amati dall'attore, Nick Manofredda. La storia di quest'uomo solitario, anticonformista, che all'inizio del film distrugge dei parchimetri per noia, finisce in carcere, deve scontare due anni in un carcere duro. Non si sottometterà alle regole, il finale sarà assolutamente drammatico e toccante. L'opera viene riproposta da Warner con un nuovo riversamento digitale degli elementi sia audio che video. Tra l'altro ricordo che quest'opera è disponibile non solo in DVD ma anche in Blu-ray alta definizione. Molto interessante c'è il commento di Eric Lax, lo storico e biografo di Paul Newman, e un bellissimo nuovo documentario che approfondisce i segreti della lavorazione del film. È presente anche il trailer. E adesso ci spostiamo al cinema italiano del dopoguerra, una perla sconosciuta o poco conosciuta, sicuramente da riscoprire. Un uomo ritorna, ascoltiamo la clip. Sì, lo deve sapere dove l'hanno portato, cosa gli hanno fatto, lo deve sapere. Non lo sa, credetemi, se potessi vorrei portarlo io stessa, vostro figlio. Gli ho chiesto subito la notte che è tornato. Quante volte ho visto dietro quella finestra, avevo paura di guardarvi. Non ti credo. Però giuro, signora, non c'era più quando li hanno messo sul treno. Me l'ha giurato, non ne ha saputo più niente. Credetemi. Va bene. Distribuisce Ripley on Video, come segnala lo stesso distributore, torna dopo 50 anni di oblio, uno dei film più controversi e dolorosi della storia dell'Italia del dopoguerra. È un film realizzato nel 1946 da Max Neufeld, che vede coinvolti Anna Magnani e Gino Cervi. È una storia drammatica, il racconto di un uomo, Sergio, il personaggio interpretato da Gino Cervi, che dopo anni di guerra torna a casa, ovviamente il paese è distrutto, in fase di ricostruzione, ci sarà questa grandissima difficoltà a rimettere in piedi non solo il proprio lavoro ma anche la propria vita. L'opera presenta ovviamente dei limiti legati alla pellicola consunta del tempo, tra l'altro non è integrale la parte del doppiaggio in italiano, sopperito dall'originale in francese con sottotitoli in italiano. Comunque quest'opera vale assolutamente la pena di essere riscoperta, tracce ovviamente monofoniche in italiano e francese. Segnalo come extra, oltre a una brochure di documenti, un interessante documentario che si intitola Nostri Ritorni, con approfondimenti e ricordi da parte di cineasti. Grazie a Claudio Pofi. Allora, appuntamento la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea per raccontarci le ultime novità in DVD. A presto, a risentirci. E con le novità in DVD si chiude, come da tradizione, la puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento va alla prossima settimana, proseguirà la nostra marcia d'avvicinamento alle zone calde della stagione cinematografica, al Natale e alla messe di film che sta per scaraventarsi sui nostri schermi. Noi saremo qui a raccontarveli come sempre. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.